Anche oggi insieme a Don Giulio Osto, che è docente alla Facoltà Teologica del Triveneto, ma lo ospitiamo in queste settimane in vista del Premio Internazionale di Poesia Religiosa a San Sabino. Ben ritrovato, Don Giulio. Buongiorno a voi. La settimana scorsa, nel presentare il testo Parole e Parola, Letteratura e Teologia, curato da Monsignor Pierangelo Sequeri, hai fatto un riferimento appunto al testo biblico, la Sacra Scrittura, la Bibbia, appunto come la conosciamo, e per quanto riguarda la letteratura, all'Odissea, attribuita a Omero, insomma, indicando per Omero un'unica figura, anche se sappiamo che non era così. Ecco, entrambi questi riferimenti, diciamo, letterari, sono adesso scritti, perché li troviamo appunto, li abbiamo anche nelle nostre case, nelle nostre librerie, ma nascono orali, nascono e per secoli sono rimasti testi orali per poi diventare scritti. Allora, proviamo a fare un ragionamento su questo, su quello che poi troviamo in maniera definita e definitiva come testo, diciamo immutabile. E tutto ciò che invece lo ha preceduto, insomma, nel racconto, anche nella tradizione orale. Sì, il rapporto tra oralità e scrittura è veramente un rapporto affascinante che stimola molto la ricerca e anche la riflessione. E mi viene da dire, essendo qui in radio, che rimane il fascino perenne della voce, della radio, perché il racconto, l'oralità mantiene e conserva il suo fascino perenne. E mi viene da pensare appunto che la radio è uno strumento tecnologico che da quando è nata mai ha avuto modifiche nella sua essenza. Per dire che insomma il fascino dell'oralità, dell'ascolto della voce, della parola parlata, che è una parola nel tempo, ecco, questa la definirei così, l'oralità, ecco, una parola che prende tempo, mentre la scrittura è una parola insomma che prende una forma definitiva. E rimane comunque un fascino perenne, appunto legato, potremmo dire, al corpo, legato al corpo. Infatti l'oralità precede sempre la scrittura, così come il corpo precede sempre la parola. Interessante il fatto che noi per 3 anni, ecco, siamo chiamati, anche di più qualche volta purtroppo, siamo chiamati infanti, cioè persone senza parola. Ecco, l'infante è appunto colui che è senza parola, però parla senza il linguaggio verbale, ma il linguaggio corporeo è ben conosciuto, Quello ecco. poi rimane, perché la maggior parte, no, noi che ci stiamo vedendo, siamo qui, insomma, muoviamo le braccia, no, chi ci ascolta non ci vede, insomma, stiamo comunicando con lo sguardo, e chi ci ascolta invece sente solo le nostre parole. Quindi anche diciamo, nella relazione normale tra le persone, quel che passa attraverso il corpo, anche magari inconsciamente, è di più di quel che passa attraverso la parola. Esatto, e quindi mi piace come prima riflessione mettere in rapporto l'oralità con la scrittura e collegare questo rapporto con quello tra il corpo e la parola verbale. Ecco, quindi come c'è una precedenza dell'oralità rispetto alla scrittura che viene dopo, la mia maestra delle elementari mi insegnava che la storia comincia con la scrittura, mentre prima si parlava di preistoria. Ecco, adesso non lo so se si dica ancora così, ma come nella vita umana c'è una precedenza del corpo per poi arrivare alla parola. Ecco, questo per dire un po', per impostare il rapporto tra l'oralità e la scrittura. Un secondo spunto è che negli ultimi decenni questo fascino dell'oralità è stato riscoperto con grande interesse. E cito due percorsi molto diversi tra loro che però hanno avuto una fortuna enorme. Per esempio, per quanto riguarda la filosofia di Platone, ecco, gli studi di Havelock. Un libro è tradotto e si intitola La musa impara a scrivere, un titolo molto interessante, che ha messo in luce l'importanza delle cosiddette dottrine non scritte e quindi dottrine orali, potremmo dire. Ecco, quindi allora il fascino della oralità su ciò che invece ci viene tramandato scritto. Ecco, quasi a dire, insomma, che c'è nell'oralità un'eccedenza. Ecco, che la scrittura comunque perde, è la stessa eccedenza, cioè quel qualcosa di più che un testo assume quando viene recitato. Un copione letto in poltrona è molto noioso, un copione che prende voce, che prende corpo su un palcoscenico e continua ad avere il suo fascino. Ecco, quindi, per esempio, una grande riscoperta dell'oralità per quanto riguarda la filosofia di Platone, con questo stimolo di Havelock, la musa impara a scrivere, ecco un titolo tradotto in italiano. Ma poi è interessante un altro percorso ad opera di un gesuita statunitense, Walter Ong, che ha scritto anni fa un libro intitolato appunto Oralità e scrittura. Ecco, tutto un rapporto che dice, uno studio che dice come nel Novecento l'oralità abbia avuto una grande riscoperta, una grande rivalutazione, ecco per dire l'esempio della radio. Ma ancora oggi pensiamo ai messaggi vocali su WhatsApp, che sono tanto belli da scrivere e un po' noiosi, almeno per Da me, da ascoltare. ascoltare. Però per dire come, ecco, il fascino di un messaggio vocale sia molto diverso Dallo dallo scrivere. scrivere che ha la sua pesantezza, che noi cerchiamo di alleggerire magari con tante emoticons, ma ecco per dire insomma. La tonalità, il tono di un messaggio, insomma, una parola può avere una stessa parola, insomma, detta in un certo modo, in modo allegro. Pensate semplicemente al salutare, al dire ciao, si può dire ciao con entusiasmo, con stanchezza. Quella, quando la scrivi, è ciao, sono quattro lettere, ma quando la pronunci ha mille sfumature. Esatto, e per concludere così con un assaggio più, ecco, teologico, se da una parte l'Odissea era affidata alla voce della Edo, ecco, che cantava le storie durante qualche banchetto, ugualmente la parola biblica è affidata alla voce del lettore, perché come dice un titolo bellissimo di George Steiner, i libri hanno bisogno di noi. I libri hanno bisogno di noi perché hanno bisogno del nostro corpo, della nostra voce. Ecco che allora questi grandi testi della cultura mondiale, come l'Odissea e la Bibbia, nascono orali e vivono orali quando continuano a prendere voce. Continuano a prendere voce, pensiamo alla Bibbia, quando diventa, potremmo dire, effettivamente parola di Dio solo quando prende corpo in una celebrazione, prende voce in una celebrazione grazie a un lettore. E questo è interessante, per cui il fatto che l'oralità nella Bibbia abbia questa importanza e questo primato rispetto alla scrittura è dato proprio in riferimento alla concezione della parola nella cultura ebraica, che è prima di tutto un evento, ecco, un evento. Mentre noi quando diciamo parola abbiamo in mente sempre qualche segno o scritto o detto. Ecco che allora la Bibbia vive solo se diventa un evento corporeo, cioè una parola scritta che però prende voce, prende corpo, e questo nella sua massima espressione, cioè nella celebrazione liturgica, dove dopo aver letto un testo scritto noi possiamo dire parole di Dio. Non apriamo tutto il capitolo della parola che si è fatta carne, questo è un tema più natalizio, ma insomma lo rimandiamo ad un'altra occasione. Allora ci ritroviamo anche tra qualche giorno con Don Giulio per tornare più specificamente sul Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino, perché si sta avvicinando la scadenza. Intanto grazie Don Giulio, alla prossima. Buona giornata.